Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Riforme strutturali e crescita sono i grandi temi su cui si sta battendo il governo italiano, che saranno al centro domani del primo Ecofin, l'insieme dei ministri dell'economia e delle finanze europei presieduto da Piercarlo Padoan, che presenterà il programma di lavoro del semestre di presidenza italiana in Europa, partito, lo ricordiamo, il 2 luglio scorso. A precedere l'incontro è prevista per oggi la riunione dell'Eurogruppo, di cui fanno parte gli stessi ministri ma solo dei paesi che adottano l'euro, mentre sempre domani Jean-Claude Juncker spiegherà agli eurodeputati cosa intenderà fare nel caso in cui verrà nominato presidente della Commissione europea a metà luglio. Nel nostro servizio sentiamo quali sono le grandi sfide della presidenza europea italiana. Oggi l'Eurogruppo e domani l'Ecofin. Il debutto italiano alla presidenza europea aspetta il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che come ex segretario generale dell'Ocse però ha comunque già ottima dimestichezza con i vertici internazionali. Padoan è stato a Berlino, a Parigi, a Madrid, ha ricevuto ed è stato ricevuto dagli omologhi dei paesi europei e il programma che presenterà tra oggi e domani è stato preparato con cura. L'obiettivo è consentire ai paesi che fanno riforme strutturali di poter usare più facilmente gli investimenti pubblici per favorire sviluppo e lavoro. Il come farlo, però, è la vera questione ed è l'oggetto della discussione che Padoan inizierà oggi a condurre, mediando tra rigoristi e sviluppisti e sapendo che i trattati non si cambiano, che al massimo si può giocare sulla loro elasticità e che l'attuale amicizia italo-tedesca è appesa alla tensione di quell'elastico. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Dato se sulle regole di bilancio, come dicevamo, dipende quello sul lavoro. Laura Bettini ha intervistato Antonio Villafranca, responsabile programma europeo dell'ISPI. Renzi ha detto che vorrebbe che la Youth Initiative, l'iniziativa giovani avviata dall'Unione Europea, su cui l'Italia può contare per quasi 1 miliardo di euro, possa diventare un programma permanente dell'Unione Europea. Anche lì però bisognerà vedere quali sono i vincoli di bilancio, perché questo possa accadere, perché al momento non si capisce bene dove si possono trovare questi fondi. E l'altra cosa che va sottolineato è il ritardo comunque delle regioni italiane nell'avviare le Youth Initiative. Negli ultimi mesi il Premier Renzi ha chiesto anche molta più Europa in tema di immigrazione. Cosa può accadere? Qualsiasi cosa l'Italia proporrà o cercherà di fare durante il semestre di presidenza dovrà essere a trattati costanti. Questo vuol dire che le competenze riguardanti le migrazioni rimangono ancora delle competenze pressoché totalmente nazionali. Una competenza piena sulle politiche migratorie in capo all'Unione Europea non c'è. Potremmo quindi dire che la credibilità del nuovo corso dell'Italia è appesa a questo semestre? Ma guardi, non c'è alcun dubbio, il semestre di presidenza, proprio per il momento particolare in cui arriva, dopo le elezioni parlamentari, dopo il risultato che ha avuto Renzi alle elezioni parlamentari, è un momento di grande opportunità, una grande sfida e l'Italia non può assolutamente permettersi di sprecarla. Domani e dopodomani si terrà a Milano la prima riunione informale dei ministri dell'interno e della giustizia dell'Unione Europea, GAI. Nel corso della riunione di martedì 8 luglio, presieduta dal ministro dell'interno Angelino Alfano, sono previste sessioni di lavoro dedicate agli affari interni. La prima avrà inizio domani mattina alle 9.15 e sarà l'occasione per una riflessione sulle future azioni dell'Unione Europea dirette ad implementare la nuova strategia post-Stoccolma. In particolare l'attenzione verrà concentrata sui temi del contrasto all'immigrazione illegale, strategia di sicurezza interna. La seconda, con inizio alle 11.20, sarà dedicata alle concrete azioni attuative della Task Force del Mediterraneo, con la prospettiva di coinvolgere l'agenzia Frontex in un'operazione che possa consentire una graduale uscita dall'operazione Mare Nostrum. È tutto, vi ha parlato Daniele Biacchesi per Europa 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.